Il gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata. Innanzitutto vi do una importante informazione, notizia. Dopo 15 anni il gastronauta cambia giorno e cambia orario. Infatti dalla prossima settimana saremo in onda la domenica alle ore 12, quindi all'ora di pranzo, il pranzo, famoso pranzo della domenica, quindi una trasmissione che avrà anche diverse novità. Ma oggi andremo a fare un viaggio in una città che ultimamente è balzata alla ribalta. Si tratta di Matera, nominata Città della Cultura 2019. Di conseguenza la cultura e anche e soprattutto cibo, da parte mia lo aggiungo questo soprattutto, perché il cibo è cultura. Chi nega questa realtà sicuramente vive fuori dal mondo. E allora io credo che oltre, diciamo, la parte dei sassi, oltre a, diciamo, una tradizione, una storia molto lunga, questa città ha anche una cultura gastronomica davvero davvero straordinaria, e la basa soprattutto sul pane, quindi diciamo una cultura antica, perché chi basa la propria cultura in cucina sul pane non può non avere una cultura molto molto antica. Tant'è vero che il pane di Matera sicuramente è tra i migliori, tra i più noti in Italia. Innanzitutto è dotato dell'IGP comunitario, quindi anche un riconoscimento. E allora io proprio dal pane voglio iniziare da un panettiere, Giacinto Mingione, dell'antico forno legna Pane Pace di Matera. Buongiorno Giacinto. Buongiorno Davide, buongiorno, ma buongiorno dove a tutti i radioascoltatori. Ma dove affonda questa cultura, Giacinto? Hai detto bene all'inizio presentando il pane di Matera, infatti fa parte del patrimonio culturale di questa città. In ogni casa il pane deve essere sempre presente, tutti i giorni dell'anno, non deve mancare mai, guai se ci si accorge che il pane è terminato. Fin dalla fine degli anni 50, fino alla fine degli anni 50, il pane veniva prodotto all'interno delle proprie case. Veniva cotto solo nei forni a legna presenti nei vari quartieri dei Sassi, infatti ce n'erano numerosi, e raggruppavano, ogni forno raggruppava 4-5 vicinati. I primi panifici nascono infatti alla fine degli anni 50, ma Quindi i primi forni dove, diciamo, pubblici, dove si poteva comprare, non più privati, quindi negli anni 50. I panifici intesi come produzione, cottura e vendita, alla fine degli anni 50, neanche all'inizio degli anni 50. Quindi diciamo che la cultura del pane venduto è veramente recente. Ma io ti voglio chiedere una cosa, Giacinto. Io so che a Matera addirittura esiste un museo dei timbri del pane. Esatto, sì, è presente all'interno del Museo Ridola. Infatti, come dicevo prima, siccome il pane era prodotto all'interno delle abitazioni, ogni famiglia aveva un proprio timbro che veniva depositato all'interno dei forni nei vari rioni, e quindi tutte le varie pezzature appartenenti a quella famiglia venivano per distinguerlo praticamente, perché tutti portavano il pane e di conseguenza. E mi risulta che per, diciamo, il discorso della cultura, Città della Cultura, nel 2019 sia stato fatto un timbro proprio ad hoc per questo. È stato fatto un timbro ad hoc per questo, infatti sia il giorno dell'esito finale che i due giorni successivi abbiamo prodotto tutta la produzione uscita nei nostri panifici, uscita con questo marchio. Bene, grazie a Giacinto Mingione. Grazie, io grazie. Ricordo, chi volesse intervenire, 800 24 00 24 349 238 66 per gli sms. Bene, abbiamo con noi lo chef che ha preparato il pranzo, che ha cucinato la commissione che ha scelto Matera come città della cultura. E si chiama Francesco Abbondanza e il suo ristorante si chiama L'Abbondanza Lucana, sempre a Matera. Francesco, ma lei cosa ha fatto? Cosa li ha convinti appunto con dei piatti succulenti? Innanzitutto buongiorno signor Paolini, buongiorno ai nostri radioascoltatori. Sì. Radioascoltatori, noi abbiamo preparato una cena all'insegna del territorio e all'insegna dei nostri prodotti tipici lucani, quindi è stata veramente una gran bella esperienza. Ci dia qualche piatto allora, ci racconti qualche piatto. Loro hanno iniziato con una degustazione dei nostri prodotti, dalla ricotta podolica alla salsiccia pezzente di Stigliano, che è un presidio slow food, di olive di Ferrantina. Abbiamo un po' presentato tutte le nostre eccellenze gastronomiche in tavola, e poi abbiamo proseguito con della pasta con una fonduta di caciocavallo podolico, pistacchio di Stigliano e dei funghi porcini freschi. E alla fine abbiamo chiuso con un dolce di ricotta con il cotto di fichi di Miglionico, quindi hanno potuto un po' apprezzare tutte le nostre eccellenze. Vorrei ricordare 800 24 00 24 e 349 238 6666. Torniamo al pranzo appunto di Francesco Abbondanza. Ho visto che avete messo proprio in tavola tutti i vostri punti forti della produzione, quindi in questo pranzo c'era veramente tutto. Però le voglio chiedere, perché si chiama salsiccia pezzente? Allora, salsiccia pezzente perché in antichità praticamente era pezzente, già il termine stesso indica povertà, quindi la parte meno nobile del maiale, gli scarti, tra virgolette, si faceva questa salsiccia, si aromatizzava con del finocchietto selvatico e dell'aglio e si prestava in cucina in tutti i suoi modi, o essiccarlo oppure fresco si faceva il famoso ragù col pezzente, il rafo nel periodo invernale quando le temperature sono molto rigide, con la neve, insomma è un piatto che calza a pennello, come si vuol dire. Bene, rimanga ancora con noi, ma abbiamo anche un produttore di vino, perché a Matera, diciamo che proprio dentro Matera, nelle vicinanze di Matera, si produce anche vino, esiste anche un prodotto che si chiama Matera DOC, e abbiamo con noi un produttore, Michele Dragone. Allora, Dragone, rimanga con noi, voglio sapere da Abbondanza quali vini sono stati serviti. Abbondanza, senza mettere il nome del produttore, ma è stato messo il Matera DOC? Allora, noi come vino abbiamo presentato sì la Matera DOC, è stata anche per loro una novità e una bellissima scoperta, in quanto il vino ancora non è conosciutissimo e hanno veramente apprezzato le qualità di questo vino. Ecco, allora chiediamo a Michele Dragone. Buongiorno Dragone. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ci spiega il Matera DOC quali vitigni, diciamo, con quali vitigni si produce? Sì, per quanto riguarda il Matera DOC volevo solo dire che è stato fatto un lavoro di recupero, perché precedentemente era un po' sparita la vitivinicoltura in provincia di Matera, per cui è stato fatto un lavoro enorme per recuperare i nostri vitigni tipici. Ci sono delle tipologie di rosso Matera DOC e delle tipologie di bianco. Il vitigno principale per il rosso è sicuramente il primitivo, del quale abbiamo rivendicato anche e stiamo cercando di rivendicare l'origine di questo vitigno. Per quanto riguarda i bianchi, la Malvasia di Basilicata, che è l'unico vitigno autoctono della nostra regione. Ho capito. Rimanga con noi, sentiamo da Francesco Abbondanza. Il dessert qual è stato, Abbondanza? Il dessert è stato servito della ricotta podolica lavorato con una semplice forchetta, noi diciamo la ricotta strazzata in termini dialettale, con l'aggiunta di questi cotto di fichi e una sbriciolata di noci sopra. È stato molto molto gradito, il dolce è molto delicato, ecco. Abbondanza, allora bisogna ringraziare, diciamo che i suoi concittadini devono ringraziarla, perché forse ha preso per la gola la commissione, probabilmente. Visto? Siamo investiti questa carica, di questa grande responsabilità, non è stata una cosa molto facile. Va bene, non li ha avvelenati. Grazie a Francesco Abbondanza. Grazie a voi, buona giornata e grazie. Bene, e diciamo che ci sono anche chicche in giro per la città di Matera, basta girarla un po', e devo dire che la parte dei Sassi è veramente affascinante, si entra in un mondo completamente diverso da qualsiasi altra città, quindi sicuramente bella, ma anche dalla parte che è stata ristrutturata, alcuni luoghi artistici che sono stati completamente ristrutturati. Devo dire che c'è un SMS che dice stazioni, treno, aeroporto. Sì, il problema di raggiungere Matera è un problema molto molto molto difficoltoso. Ma torniamo un po' alla gola, e io vado ora alla rosticceria da Emanuele. Ebbene, buongiorno Emanuele Manicone. Buongiorno, sono sì. Ma Emanuele Manicone, prego. Sì. Dimmi. Emanuele Manicone è, diciamo, continua questa tradizione che è molto nel sud, anche in Puglia, dei fornelli. Lei produce, sì, diciamo, cuoce tutto quello che vende di carni, è così, no? Certo, noi abbiamo la podolica qui a Matera, noi dalla podolica ricavo delle salsicce, faccio delle salsicce. Ecco, spieghiamo che la podolica è una razza bovina. I vitelli, sì. Sì, locali che abbiamo noi nella nostra regione. Vada avanti. Ne mangiamo molto la carne, che è buonissima, tenera, e facciamo delle ottime salsicce che le faccio ai fornelli, riempio dei buoni panini croccanti, in modo che li prendiamo tutti per la gola, questi nostri signori. Quindi è un cibo di strada, il suo, quello che lei fa, è un cibo di strada. Ma oltre, ha detto che fa salsicce, ma io so che lei fa anche dei polli straordinari allo spiedo. Certo, dei polli che ecco, ci hanno fatto crescere. Come la Sicilia. Bene, io certo. Rimanga con noi, torno da Michele Dragone. Dragone, abbiamo parlato di Matera Doc, ma ci racconti anche degli altri vini che si producono nel territorio. Dunque, una particolarità che ci differenzia dalle altre regioni del sud è quella della produzione di spumanti con il metodo classico. Infatti siamo stati la prima regione sia a produrlo in Sud Italia e sia ad ottenere il riconoscimento della DOP. Sono in due tipologie, uno è bianco ottenuto sempre dalla nostra Malvasia di Basilicata con una piccola percentuale di greco bianco, e l'altro mi risulta essere unico al mondo, è prodotto dal primitivo, per cui è un rosé che grazie a Dio ci sta dando delle ottime soddisfazioni. Quindi diciamo che la spumantistica, lei infatti so che è noto appunto per gli spumanti, con quale vitigni diciamo fate la spumantizzazione? Ve l'ho appena detto, sì. Il bianco lo facciamo con la Malvasia di Basilicata e con il greco, invece il rosé è con il primitivo ed è una particolarità, è piuttosto unico sia nelle caratteristiche organolettiche sia nella sua tipologia di metodo classico, e vi assicuro che non è stato e non è assolutamente facile al sud produrre, diciamo, spumanti con il metodo classico che siano anche di qualità. Però, diciamo, nel corso di questi 20 anni alla fine credo ci siamo riusciti. Bene, tempo fa la Basilicata è balzata alla ribalta per un divertente film che era Basilicata Coast to Coast, e devo dire che è un film che ha dato, credo per la prima volta, così un'immagine di questa splendida regione, perché c'è di tutto, dal mare fino alla montagna, quindi c'è anche un ristorante molto in alto che si chiama Becco della Civetta in provincia di Potenza, che sembra di andare sulle Dolomiti proprio, infatti è chiamata la Dolomite del Sud. Ma questo film, diciamo, ha posto la ribalta, oltre che i paesaggi, anche delle cose divertenti sul cibo, e soprattutto è emersa una frittata. Il pane frittata di mia madre non si batte. Perché non è che bastano due fette di pane e una frittata per fare il pane frittata che fa mia madre. Se al pane frittata che fa mia madre gli levi mia madre, rimane un panino con la frittata. Generico, semplice, banale, ordinario. Se invece al pane frittata che fa mia madre gli levi il panino con la frittata, rimane, beh, mia madre. Siete bella. E può sempre farmene un altro, che magari le viene meglio o peggio. E lì uno può fare dei paragoni. Oltre al gusto del pane con la frittata, c'è il gusto della sorpresa, dell'imprevisto, che è il sale della vita. E anche di quel pane affrittata. Il pane frittato senza mia madre è orfano. È un panino senza background, senza memoria, senza cultura. È un panino che magari lì per lì ti sfama pure, però non ti appassiona, non ti fa crescere. Il pane frittato senza mia madre è un panino ripieno di un vuoto. C'è un ritorno, diamoci qua. E alla fine lo senti, quel retrogusto di un gusto che non è il tuo. Bene, divertente il pane torna sempre e sicuramente col pane bisogna bersi un bicchiere di vino. Torno a Michele Dragone, perché Dragone, diciamo che anche se un po' di chilometri da Matera, ma il Vulture è un po' la regione guida, la regione principe per il vino in Basilicata, soprattutto questo aglianico del Vulture che pian piano nel tempo sta emergendo, vero Michele? Sì, l'aglianico del Vulture è ormai una realtà, diciamo, è uno delle chicche della regione Basilicata. I colleghi del Vulture hanno iniziato molto prima di noi, hanno lavorato benissimo, sono riusciti a dare a produrre vini di spessore di una certa importanza, ormai riconosciuto in tutto il mondo. Da poco hanno ottenuto anche la DOCG che gli conferisce ancora di più, diciamo, queste caratteristiche importanti. Sicuramente si distingue, la Basilicata è bella ed è interessante anche per questo, perché a seconda delle zone esprime quello che è di meglio quel territorio, quella zona può dare. C'è anche i colleghi della Val d'Agri che hanno ottenuto anche il loro riconoscimento e producono altri vini con altri vitigni, per cui pur se piccolina riusciamo a differenziare le aree anche nel gusto e nella produzione dei prodotti, diciamo, enogastronomici. Sì, poi non dimentichiamo che c'è anche l'olio, che è importante in alcuni territori, e poi sempre vicino a Matera ci sono delle olive molto molto molto importanti, che sono veramente succolente, le olive di Ferrandina. Devo dire che sono un prodotto anche questo, così, da mettere nel grande bilancio della cultura di questa città e di questa regione. Ma poi diciamo che fino ad ora non abbiamo citato il pecorino di Filiano, che è un formaggio molto, molto importante, così come il canestrato di Moliterno. E Emanuele Manicone, lei fa anche dei panini con appunto i formaggi tipici del suo territorio? I panini, diciamo, i formaggi li inserisco nelle salsicce, nella salsiccia, li inserisco nella carne, certo. Ah, quindi panini con carne e carne saporita con formaggi nostri. Ecco, quale uso di formaggi lei? Il pecorino. Ah, pecorino. Il pecorino. Il pecorino di Moliterno, oppure sì. E i peperoni? Alcune volte lo trovo da alcuni allevatori da intorno anche a noi. E peperoni cruschi le usa nelle sue specialità? Sì, certo. Mettiamo anche i peperoni, come lo stavo dicendo prima. Inseriamo anche questo peperone che viene smacinato sottile nelle salsicce, che dà un bel colore, dà un bel sapore. Bene. E riprendiamo. Sì. Allora io ringrazio Emanuele Manicone, la rosticceria da Emanuele, e Michele Dragone dell'azienda vinicola Dragone, appunto, che è specializzata sia sul Matera DOC e sulla spumantistica. Ma abbiamo parlato già più volte di pane, e abbiamo detto un po' la caratteristica di questa città, un pane storico, tradizionale, di grande livello, non solo, ma addirittura esiste un museo dei timbri su questa storia dei famosi pani che venivano fatti in casa. Abbiamo sentito solo alla fine degli anni 50 addirittura sono cominciate a emergere le panetterie. Prima il pane era solamente una tradizione di casa, quindi una straordinaria tradizione appunto culturale di questa città. Ma andiamo avanti, perché dal pane si possono fare tantissime cose, si possono fare anche dei piatti, e in un'epoca in cui si parla molto di recupero del cibo, dal pane raffermo si possono creare tantissime cose. Io lo chiedo a un ristoratore, Ferdinando Paolicelli del ristorante Novecento. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno signor Paolini, buongiorno a tutti. Ecco, mi vuole raccontare dei piatti a base di pane che voi avete creato nel vostro ristorante? Sì, abbiamo creato una serie di piatti usando il pane raffermo. È uno dei must che abbiamo qui nel nostro ristorante, è molto interessante, sono questi cannoli di pane con all'interno del baccalà mantecato. E terminiamo diciamo, prima di servirlo mettiamo della cipolla di Tropea in agrodolce, per esempio, oppure facciamo dei tortilli di pane con dei funghi cardoncelli che in questo periodo cominciano a uscire e della pancetta fresca di maiale, e li serviamo con della crema di patate E infine una cosa molto interessante che abbiamo creato negli ultimi tempi è stato proprio un dolce proprio con il pane, che so che è una crosta, una semplice crostatina con all'interno dei cubettini di pane, sempre raffermo, aromatizzato con del latte, cannella e uvetta passa. Quindi veramente diciamo un discorso tutto basato sul pane, giustamente, visto la cultura della vostra città. Ricordo 800 24 00 24, chi volesse intervenire, 348 239 6666 per gli sms. Ma voglio rispondere a un radioascoltatore che dice: ma perché non fate parlare i produttori di vino? Michele Dragone ha avuto ampio spazio, caro radioascoltatore, non capisco. Quindi Michele Dragone era un produttore, anzi noto produttore di vino. Ma abbiamo con noi Ferdinando, rimanga assieme, perché andremo avanti su questo discorso del pane raffermo. Abbiamo anche il gelato, abbiamo anche un gelato particolare a Matera, quindi per i golosi, stiamo facendo un giro appunto dei golosi, cibo di strada, e ora andremo a parlare di gelato con Valeria Vizziello della gelateria I Vizi dell'Angelo. Buongiorno Valeria. Buongiorno Valeria. Pronto? Valeria, mi sente? Pronto? Bene, Valeria probabilmente non mi sente. Bene, continuiamo il nostro discorso anche con Ferdinando Paolicelli. Beh, vorrei ricordare, Ferdinando, che voi avete tantissimi prodotti. Abbiamo dimenticato forse di parlarne, anche se non sono materani, sono in provincia di Potenza. Ad esempio abbiamo i fagioli di Sarconi, che sono molto, molto noti. Ecco, voi li usate come i peperoni cruschi, o poi ancora i peperoni di Senise, il canestrato, i fagioli bianchi di Rotonda. Quindi abbiamo una varietà incredibile. Voi usate questi prodotti tipici del territorio oltre il pane? Sì, certamente, comunque li abbiniamo sempre anche, o chiaramente cerchiamo di abbinare al pane, ok, questi prodotti qua. Ad esempio benissimamente il pecorino di Moliterni lo possiamo abbinare con nell'impasto, lo mettiamo negli impasti per fare le polpette di pane. Sono queste, e questo pane che viene frullato, questa mollica che viene frullata e impastata con delle uova e ovviamente del pecorino grattugiato, ecco, nonché proprio in pecorino di Moliterni, e poi fatte delle polpette, delle quenelle chiamate, e fritte nell'olio ovviamente d'oliva. Ecco, ma si chiama Moliterno il paese, non Moliterni? Moliterno. Moliterno, perfetto, sì. Ecco, volevo chiederle un'altra cosa. Voi avete anche un prodotto veramente unico, che è la melanzana rossa di Rotonda. La usate in maniera particolare? Sì, anche quella la usiamo e la utilizziamo soprattutto per fare degli antipasti. La cuociamo nell'acqua, la tostiamo bene e poi la mettiamo sott'olio. Dopodiché negli antipasti diamo questa scelta di questo prodotto particolare a noi vicino, insomma. Bene, andiamo anche da un altro ristoratore che ha uno splendido albergo proprio tra i Sassi. Andiamo da Lucio Russigno, ristorante Regia Corte di Matera. Buongiorno Lucio. Buongiorno a te, buongiorno. Bene, allora caro Lucio, cosa state preparando per il 2019, in questi anni che arriveranno ancora più turisti? Perché voi, dopo essere stata nominata città dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, che avete avuto un ampio turismo, ora forse ne avrete ancora come città della cultura. Ecco, vi state preparando a questo? Ci stiamo preparando con grande orgoglio, perché è un momento per il nostro territorio di grande riscatto, quindi sarà nostro dovere, compito, responsabilità trasmettere al mondo quello che sono le nostre tradizioni e le nostre culture. Non cosa semplice, perché è chiaro che dovremmo essere molto attenti a questo nostro momento, ripeto, di grande orgoglio. Ecco Lucio, i piatti principe della cucina, abbiamo sentito diciamo un grande utilizzo del pane, ma c'è anche un grande utilizzo di carni da voi? Da noi c'è anche un grande utilizzo di carne, soprattutto la carne podolica, di razza podolica, il manzo podolico. Abbiamo l'agnello, chiaramente che è uno dei nostri, delle nostre carni predilette, perché e poi sì, queste sono le carni, come la pecora per quanto riguarda la pignata, insomma queste sono le nostre carni che poi facciamo e li trasformiamo in una maniera molto semplice, perché le nostre carni non vengono, nelle nostre ricette non c'è una grande trasformazione, viene presentata così quasi al naturale, tranne la pignata e l'agnello che viene molte volte proposto al forno. La pignata, quindi si tratta di pecora la pignata? La pignata è un coccio, sì, sì. È la pecora, dove si cucina per 4-5 ore in un coccio di terracotta. E all'interno del coccio si mettono patate, salumi, pecorino, praticamente ci sono speziato con questi aromi e poi si lascia cucinare nel forno, in un forno a legna per 4-5 ore, anche di più. Tutto viene ricoperto da un impasto di mollica di pane. Quindi dopo 4-5 ore di cottura viene servito, si ribalta tutto in un altro coccio e viene servito caldo. Chiaramente è un piatto unico perché è un piatto parecchio pesante, quindi si mangia solo quello con un buon vino, accompagnato da un buon vino alianico. Ecco, avete anche delle zuppe come primi piatti, oltre che della pasta? Abbiamo delle zuppe, sì, fatte soprattutto con legumi. Quindi abbiamo la crapiata, è un altro nostro piatto tipico, che è un insieme ci sono tutti i legumi in questo piatto e viene servito con della mollica fritta e della cipolla fritta sulla zuppa. I nostri piatti sono parecchio saporiti. Diciamo che sono anche piatti, insomma, che bisogna anche camminare tra i sassi con tutte le salite e tutte le scale che ci sono. Se ne mangia tanto, sì, ma altrimenti viene servito con olio crudo, con una foglia d'alloro e diventa un piatto piuttosto leggero, se vogliamo, rispetto al fritto che abbiamo proposto prima. Ecco, ho sentito parlare del dessert prima dal nostro amico Paolicelli, che ha parlato di un dessert del ricordo di Matera, ma oltre questo che è suo personale, diciamo, del suo ristorante, quali sono i dessert, diciamo, più comuni nella vostra cucina? Non ce ne sono tanti dessert. Non ci sono, noi stiamo proponendo qualcosa di nuovo, nel senso che siamo sempre il pane in prima linea e quindi stiamo cercando dessert nostri. Della tradizione materana non ce n'è tanto, se consideriamo il fatto che noi comunque veniamo fuori da una gastronomia o da una cultura contadina, quindi non è che abbiamo grandi dessert nostri, sì, proponiamo dei dessert, ma non dalla tradizione e dalla tipicità materana o lucana, almeno nel nostro territorio, tranne ci sono dei dolci fatti con ceci. Ah, ecco. Oppure ecco, ci sono dei fritti fatti con delle pastella, una pastella di ceci e farina viene proposto in maniera dolce e quello può essere un'alternativa. Oppure ci sono quei piatti, quei dolci natalizi che si chiamano non mi viene. Vabbè, ci sono dolci natalizi. Grazie prego, grazie a Lucio Ruscigno e grazie a Ferdinando Paolicelli. Cibo vagando per la città. Devo dire che si incontrano ristoranti appunto basati su carne, su salumi, sul pane, abbiamo sentito. Ma c'è anche un'eccezione di un ristorante, che è l'Osteria dei Sassi, che però non è nei Sassi ma è nella parte nuova, che ha un menù a base di pesce. Buongiorno a Leonardo La Catena. Buongiorno a tutti. La Catena, ma come mai lei ha deciso di fare un menù a base di pesce? Beh, diciamo che venendo dalla Puglia, precisamente da Massafra, in provincia di Taranto, ho voluto un po' uscire fuori dagli schemi e quindi proporre una cucina basata prevalentemente sul pesce, e facendo, insomma, aiutando quello che è il pescatore locale, e quindi rivolgendomi praticamente a loro per recuperare, diciamo, tutto il pesce che viene pescato nei nostri mari. Quindi, diciamo così, aiutiamo anche un po' la piccola pesca, che purtroppo negli ultimi anni sta avendo tantissimi problemi, quindi siamo vicini al mondo dei pescatori ed ecco perché è nata questo progetto e questa nuova sfida, diciamo così. Lei ha portato una tradizione pugliese, cioè una tradizione che, diciamo, che nella città di Matera e nel materano non c'è. Sì, la, cucina materana, diciamo quella lucana, è molto simile alla pugliese. Io ci ho aggiunto solo quello che a Matera manca, il pesce, anche perché vuol dire non è una città sul mare. E niente, ho dato solo il mio piccolo tocco, nient'altro. Grazie, rimanga ancora con noi, ma ora parliamo anche di gelato. Abbiamo parlato appunto di cibo di strada, prima non ha funzionato il collegamento con Valeria Viziello della gelateria I Vizi dell'Angelo di Matera. Buongiorno Valeria. Buongiorno, grazie per l'invito e mi scuso se la linea prima è caduta. Io so che lei fa dei gusti che sono molto, diciamo, legati ai prodotti del territorio, è così? È così, assolutamente. La nostra ricerca, intanto noi facciamo un gelato artigianale e un gelato di materie prime selezionate, appunto. E la nostra selezione ovviamente parte dalla ricchezza del territorio materano e lucano, a partire dal latte che appunto viene munto appositamente per noi da un'azienda locale, appunto materana. E ovviamente usiamo tutte le materie prime che la nostra terra ci offre, che sono tantissime. Ci dia due gusti veramente molto originali. Allora, guardi, di originale le posso dire che avete parlato di vino e ovviamente i vini si prestano molto bene sia per fare un gelato come quello all'aglianico che facciamo, oppure anche per sposare altri gusti. Per esempio noi abbiamo i percochi, che sono un tipo di pesca a pasta gialla propria del Metapontino e che si sposa magnificamente anche con il vino rosso, col primitivo. Bene. Quindi fare dei gusti è molto, molto facile. Bene. È molto facile. Bene, passiamo ancora a un ristorante che usa anche questo ristorante prodotti importanti del territorio, a cominciare da formaggi veramente di grandissimo livello. Buongiorno Sergio Guanti del ristorante Le Baccanti. Buongiorno Davide. Buongiorno. Senta Guanti, lei utilizza molto la carne podolica e soprattutto caciocavallo invecchiato? Certo. La podolica, diciamo subito, si tratta di una razza che in passato veniva usata esclusivamente per il lavoro. La produzione di latte minima, parliamo di 10-12 litri di latte a vacca al giorno. Sono delle vacche che sono allo stato brado, quindi un latte eccezionale, un latte molto grasso. In effetti quando si apre una forma di caciocavallo podolico ci sono dei profumi fantastici e vediamo questo caciocavallo proprio giallo, un giallo carico. A me piace sempre servirlo con stagionature molto... Si va da un minimo di un anno e mezzo, ma arrivo anche a volte a 3 anni, 4 anni di stagionatura. La carne invece si è scoperta da poco, l'utilizzo anche della carne. Noi proponiamo un antipasto che è praticamente una bresaola fatta in casa. Abbiamo un girello di podolica che facciamo marinare in sale e zucchero, gli diamo una leggera stagionatura, una leggera affumicatura. Il risultato è eccezionale. Lo accompagniamo con dei carciofini sott'olio, sempre fatti rigorosamente in casa da noi. Oltre al caciocavallo, diciamo siete ricchi come lucani di formaggi, perché ho citato prima il pecorino di Figliano. Sì, noi abbiamo in particolare di quella zona abbiamo il pecorone di Forenza, pecorone perché sono delle forme che arrivano anche a 30 kg, 35 kg. Sì, specialmente quelle della signora Maria. Della signora Maria, perfetto, sì, grandissima. Lei fa questo pecorino, chiaramente ci vuole del latte eccezionale, del latte fantastico per fare delle forme di pecorino così grandi che non debbano spaccare. Parliamo di stagionature, anche lì si va oltre l'anno tranquillamente, perché avendo delle forme così grandi abbiamo veramente dei formaggi fantastici. Tra l'altro anche di caprini, abbiamo degli ottimi caprini, quelli che fa il grande Mario giù a Gorgoglione. Poi avete anche il canestrato di Moliterno, che è un altro canestrato di Moliterno anche, sì, beh, insomma poi è chiaro, pecorino di Figliano o canestrato di Moliterno sono sempre delle produzioni simili che poi chiaramente insomma, hanno i loro disciplinari. Quindi, senta, da voi si trova in, anche il taleggio di capra, se non erro. Sì, infatti, sì, il taleggio di capra. C'è in particolare Mario Gorgoglione che fa questi formaggi fantastici, taleggio di capra, ma lui si diverte a fare sempre dei gusti nuovi, dal più classico. Bene, quindi una grande tradizione appunto, certo, casearia. Certo, sì. Bene, io ringrazio Leonardo La Catena, Valeria Viziello, Sergio Guanti. Abbiamo, diciamo, terminato questo viaggio dentro questa città che sarà la città della cultura del 2019 e abbiamo scoperto anche che c'è una grandissima cultura del cibo. Io all'inizio ho parlato di pane, ma non solo pane, abbiamo sentito che c'è anche molto companatico, appunto girando e andando a scoprire qua e là nella ristorazione e appunto anche nel cibo di strada. Bene, mi sono vicino alla conclusione e ricordo ancora una volta per chi mi segue da 15 anni che dalla prossima settimana la trasmissione non sarà più sabato alle ore 11 ma domenica alle ore 12 con delle novità e quindi andremo in onda nell'ora del pranzo della domenica. Già questa diciamo pranzo della domenica ricorda molti la memoria, ricorda molti il passato. C'è chi dice che il pranzo della domenica non esiste più, ma ci sono state delle trasformazioni, quindi andremo sicuramente a raccontare un po' anche cosa succede attorno al pranzo della domenica, le ricette, i prodotti e anche appunto la storia di questo pranzo della domenica che un tempo era molto molto importante, oggi forse lo è molto molto meno, ma insomma andremo a vedere. Quindi il vostro gastronauta vi saluta, vi dà appuntamento domenica ore 12, sempre ovviamente su Radio 24. Un caro saluto da Davide Paolini.